Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Stavamo scherzando in regia con Valeria Bernardi sull'avvio della trasmissione. Allora, buona serata da Deborah Rosciani, bentrovati a Focus Economia. Questa sera siete in mia compagnia per appunto il resoconto della giornata economico-finanziaria. Comincio in maniera un po' originale stasera perché non eravamo neanche partiti, erano da poco passate appunto le 17. Un ascoltatore, Giordano da Modena, ascoltando appunto il giornale radio, scrive codesto messaggio. Gentile dottor Barisoni, mi spiace, non c'è lui, ma io ne faccio stasera, così ne ricopro un po' il ruolo. Ma la redazione del vostro TG è un cane sciolto. Se Confindustria lamenta plateali problemi nella gestione della crisi compiute dal governo in carica e lo dice chiaramente, come fate voi a oscurare il presidente della radio che vi controlla? Siete la radio del sindacato dei pensionati. Allora, guardi, le va bene, Giordano, che ci sia io in conduzione, quindi magari commenterò in maniera un pochino più tranquilla questo messaggio. A me proprio veramente risulta che mai e poi mai sia stato oscurato il pensiero del presidente di Confindustria, quello in carica da poco, quello precedente, quelli precedenti, soprattutto se c'è uno scontro più o meno plateale con il governo. Nessuno qua mai censurato nessuna notizie, il nostro compito è raccontarvi quello che succede, possibilmente prendere meno posizioni possibili, perché credo che questo sia l'atteggiamento che fa di noi dei giornalisti professionali. Anche se devo dire, Giordano, che in realtà molto spesso proprio voi ascoltatori lamentate il fatto che non ne prendiamo. A me capita molto nel programma del mattino con Mauro Meazza, Due di Denari. Gli ascoltatori apprezzano moltissimo quando attacchiamo, siamo particolarmente aggressivi e feroci. Atteggiamenti che a noi non corrispondono più di tanto, ma devo dire che invece voi ce li chiedete molto spesso. E che vi devo dire, qua non è mai contento nessuno, però le posso dire che oggi parleremo diffusamente di quello che ha detto oggi il presidente di Confindustria a Conte insieme a tutte le altre categorie datoriali. Oggi era questa la giornata degli stati generali appunto organizzati dal governo. Il presidente del Consiglio incontrava a partire dal primo pomeriggio tutte le organizzazioni e le associazioni delle categorie economico-produttive. A Conte nessuno le ha mandate a dire e noi vi spiegheremo anche molto dettagliatamente quello che ha detto il presidente di Confindustria, che comunque esprime con grande chiarezza il suo pensiero già da molte settimane, e faremo un commento, se volete, un po' rispetto alle ricette emerse per la ripresa economica questo pomeriggio. Ma il Premier non ha esitato a definire comunque il quadro attuale molto grave, molto serio. I dati che continuano ad essere rilasciati dall'Istat non soddisfano affatto le aspettative dell'esecutivo. Anche dopo la ripresa, la fase 2, il progressivo rallentamento, allentamento del lockdown, in realtà non stanno portando, insomma, queste fasi i consumatori a consumare, a spendere, ad acquistare, e i dati appunto forniti soprattutto dall'Istat questa mattina ce lo raccontano chiaramente. C'è ancora molta incertezza e quindi la ricetta anche politica è molto difficile da poter essere messa a terra se si continua a navigare appunto in un quadro che non dà nessuna certezza a nessuno. E peraltro poi ci mettiamo oggi l'altro grande elemento di disturbo che poi sui mercati si è fatto sentire relativamente. A Pechino sono di nuovo molto preoccupati per un ritorno di contagio, voli, migliaia di voli aerei cancellati, scuole chiuse, città chiusa. Insomma, se succede a Pechino tutto questo non è che dobbiamo essere molto, molto tranquilli. Speriamo di no, speriamo che contengano immediatamente la situazione, visto che la lezione l'abbiamo appresa su quello che si deve fare quando ritornano dei focolai, e quindi oggi, forse anche per questo motivo, per delle iniziative intraprese subito, il mercato non si è più di tanto spaventato. In questo momento appunto i mercati finanziari sono contrastati perché c'è un quadro prevalentemente positivo in Europa con l'eccezione di Milano. Wall Street aveva aperto bene, consolidando i rialzi degli ultimi giorni, soprattutto sulla tecnologia, poi ha girato. C'è volatilità, però tutto sommato devo dire che il mercato tiene, e al momento Pechino non preoccupa, oggi, vedremo domani. Di tutto questo parleremo stasera a Focus Economia. Per quello che riguarda poi la situazione degli stati generali, appunto, dell'economia e la, come dire, la tappa, la giornata di oggi con le categorie economico-produttive, parleremo più tardi con un economista e con un professore universitario, entrambi esperti di realtà industriale italiana, il professor Marco Fortis è molto ferrato sui temi della piccola impresa italiana, poi il professor Marco Taisch invece ci racconterà lo sviluppo del 4.0 italiano, che chiaramente subisce una battuta d'arresto importante per questa crisi. Forse da qui bisognerà ripartire con piani di investimento, ma vedremo se da quello che è emerso in questi giorni, da questi stati generali, c'è un'intenzione o meno di sostenere anche i cambiamenti digitali e tecnologici, appunto, delle aziende, soprattutto di quelle che sono rimaste più indietro in questo passaggio, perché poi anche il panorama italiano ci racconta di aziende che invece hanno portato avanti piani di investimento molto sostenuti in questi anni, puntando e utilizzando anche gli strumenti offerti dal settore pubblico. E poi la borsa, e parleremo insomma prevalentemente però di questi argomenti stasera. Se volete intervenire, commentare i fatti del giorno con noi, potete farlo con le consuete modalità. Il 349-238-6666 è il numero che potete utilizzare per inviarci dei messaggi SMS, ma anche dei messaggi su WhatsApp. Siamo live anche su Facebook e su tutti i canali social di Radio 24. Vedo ancora altri ascoltatori che continuano appunto a commentare il primo messaggio e ci suggerite di lasciar scivolare, ma no, a noi piace anche questo confronto con voi, perché poi c'è utile anche per fare il meglio il nostro lavoro, soprattutto perché poi quando mandate dei messaggi ritenete che non li leggiamo, che li censuriamo, invece vi voglio dare anche dimostrazione che non solo li leggiamo ma li teniamo anche in grande considerazione. Ci piace insomma capire un po' come la pensate su e capire come vorreste che facessimo meglio insomma il nostro lavoro. Fatto tutto questo preambolo, cara Valeria, possiamo partire. Partiamo con le notizie in breve, come sempre, con quelle di carattere internazionale, poi andremo chiaramente al grande focus sugli stati generali e la giornata odierna. Allora, la Cina, come sapete, sta affrontando in queste ore un nuovo allarme Covid. Ci sono stati, tra l'altro questo è un aggiornamento di qualche ora fa, io spero che sia definitivo e che non si sia aggiornato ulteriormente in senso peggiorativo. Nella giornata di oggi Pechino aveva registrato oltre 30 casi di Covid e dal 13 giugno sono più di 356.000 i test fatti sulla popolazione ad un ritmo serrato e continuo. E quindi, insomma, se questi sono i casi rilevati rispetto al numero dei test fatti, è chiaro che è un numero molto contenuto, ma in ogni caso, come sapete, basta poco per far riesplodere un contagio e quindi è bene anche che la città si sia subito organizzata per blindarsi letteralmente. Cosa ha fatto la città appunto per arginare immediatamente la preoccupazione e questo ritorno di Covid sostanzialmente in questa grande area, in questa grande metropoli? Intanto sono stati cancellati 1200 voli, quasi il 70% del totale dei voli previsto appunto per la giornata, e sono state chiuse le scuole. E poi ci sono delle novità, me ne abbiamo raccontate anche nel giornale radio, sulle modalità con cui questo focolaio praticamente sarebbe scoppiato, arriverebbe da un mercato appunto del sud del paese, e non ci sarebbe nessuna evidenza che sia stato appunto un salmone, una partita di salmone a veicolare appunto il Covid in questo caso. La propagazione sarebbe avvenuta appunto, ecco, ve lo dico con correttezza, al mercato all'ingrosso di Xinfadi, dove sono stati trovati alcuni salmoni infetti. Intanto, a parte appunto tutte queste novità, l'economia cinese prosegue anche nelle sue iniziative di sostegno economico e finanziario. Oggi è stato reso noto che il paese emetterà un terzo lotto di titoli di Stato a speciale destinazione, appunto, e cioè titoli di Stato destinati a finanziare il contenimento del Covid, un po' come sta facendo l'Italia, come sapete. A breve, oltre al BTP Italia di qualche giorno fa, c'è anche il BTP Futura che verrà collocato a metà luglio. Il Ministero delle Finanze appunto ha reso noti i dettagli di questa operazione. Si tratta di obbligazioni a tasso fisso, un valore di 70 miliardi di yuan, quasi 10 miliardi di dollari, un titolo con scadenza 10 anni che potrà essere sottoscritto a partire dal 23 giugno e saranno titoli che potranno essere negoziati sul mercato secondario dal 30 giugno. Intanto il bilancio dei morti provocati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato anche quello delle vittime americane della Prima Guerra Mondiale. Lo ricordano i media internazionali riportando un conteggio aggiornato dalla Johns Hopkins University. All'epoca del primo conflitto mondiale morirono 116.516 americani. Il conteggio aggiornato dei morti da Covid negli Stati Uniti invece ammonta a 116.963 decessi. Il bilancio dei morti negli Stati Uniti aveva già superato in aprile quello dei soldati statunitensi in Vietnam, morti in Vietnam. Dati economici che arrivano dagli Stati Uniti, oggi abbiamo anche questi. Oggi il monitoraggio riguarda il comparto immobiliare. Le costruzioni di case nuove negli Stati Uniti in maggio sono salite del 4,3% ad un tasso annualizzato di 947.000 unità. Il dato è inferiore alle attese, ma è chiaro che si è fermato anche il settore immobiliare in misura prepotente in questi ultimi tre mesi. Gli analisti scommettevano su un aumento del 23,5%. Pensate, quindi, insomma, l'aumento è stato molto più ridotto del previsto. Intanto il Dipartimento di Giustizia americano si appresterebbe a proporre una riduzione delle tutele legali di cui le piattaforme online hanno goduto per anni nel tentativo di renderle più responsabili nel controllo dei loro contenuti. La notizia è diffusa dal Wall Street Journal, citando alcune fonti secondo le quali la riforma punta a spingere le piattaforme online ad essere più aggressive nell'affrontare i comportamenti illeciti che si manifestano sui loro siti e ad essere più giuste anche nella loro decisione sulla rimozione dei contenuti considerati discutibili. Diciamo che questa mossa rappresenta un'ulteriore escalation nei già tesi rapporti fra l'amministrazione Trump e le società tecnologiche come Twitter, del quale peraltro lui è un grande utilizzatore, come sapete, Google e Facebook. Intanto sembra che diventerà presto più difficile la vita delle aziende straniere che operano nell'Unione Europea ma prendono sovvenzioni dai loro governi, sfuggendo così alle rigide regole europee sugli aiuti di Stato. La Commissione Europea propone di porre rimedio a questa distorsione della concorrenza mettendo in piedi una serie di meccanismi per individuare e mettere paletti alle società che giocano sleale, che, forti dei sussidi esteri, provano a comprare aziende europee o a vincere appalti europei. Ma sempre in questo ambito voglio raccontarvi invece una decisione in netta controtendenza che è stata presa da un'azienda che noi tutti conosciamo molto bene, perché almeno una volta nella vita ognuno di noi è entrato in un reparto dell'IKEA. Sentite che cosa ha fatto il gruppo. Dice: siccome le conseguenze della pandemia sono state meno gravi del previsto per noi e siccome dopo il lockdown i negozi sono tornati velocemente a riempirsi di clienti, per questo motivo abbiamo deciso di restituire, sentite qua, quando mai è successa una cosa del genere, a 9 governi nazionali i fondi che abbiamo ricevuto come ammortizzatori sociali, in particolare misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Eh sì, è un'operazione inedita e le trattative per questa operazione sono già state avviate con i governi di Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Irlanda, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Stati Uniti. Secondo i top manager di IKEA, IKEA aveva previsto una contrazione del business di almeno il 70-80% all'inizio della crisi da coronavirus. Invece, ora che quasi tutti i negozi, tranne una ventina, hanno riaperto, la catena di arredamenti fai da te più grande al mondo sta sperimentando gli effetti di una notevole domanda di ritorno per il rinnovo di case ed appartamenti e quindi rinunciano agli ammortizzatori sociali. Una notizia che ha dell'incredibile, ma insomma ci piace raccontarvi. Intanto abbiamo delle notizie che arrivano dalla Germania. Il gabinetto di Angela Merkel ha approvato la seconda manovra straordinaria da 62 miliardi e mezzo di euro. Il ministro delle finanze Scholz ha affermato alla stampa: è una misura assolutamente giusta, l'ammontare giusto, meno non sarebbe bastato. Con questa seconda manovra il nuovo indebitamento tedesco sale nel 2020 a 218,5 miliardi di euro. La prima manovra straordinaria, che era stata decisa a marzo, aveva stanziato 156 miliardi di euro, chiaramente maxi pacchetti di intervento per contrastare gli effetti negativi economici della pandemia. Andiamo alle notizie dall'Italia e allora abbiamo ancora numeri rispetto all'attività della Task Force, la cosiddetta Task Force Liquidità. Si confermano su volumi elevati, oltre 2,6 milioni per un valore di 277 miliardi, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 640 mila le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso Garanzia Italia di SACE sono state concesse garanzie per 718 milioni di euro su 75 richieste ricevute e questi appunto sono i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla Task Force che è stata costituita, l'abbiamo ricordato un milione di volte, per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Altri osservatori oggi interessanti sono stati diffusi. A fine 2020 l'impatto della pandemia di Covid-19 sul totale della spesa agroalimentare domestica e del fuoricasa potrebbe essere di 24 miliardi di euro, con un calo del 10%. Sono le stime del terzo rapporto ISMEA sulla domanda e l'offerta del settore nell'emergenza Covid, che indicano anche un cambiamento di alcuni comportamenti d'acquisto da parte degli italiani, ma lo sappiamo. In particolare, questo osservatorio stima una perdita di 34 miliardi di euro per la spesa fuori casa, una crescita di 10 miliardi per quella domestica, ma chiaramente le due voci non si compensano. Un altro osservatorio interessante che è stato diffuso è quello di European House Ambrosetti, un sondaggio sulle, anche in questo caso, imprese del settore alimentare che si stima a fine anno subirà un calo del fatturato dell'1,9%, ci sembra effettivamente un dato persino buono, se così lo andiamo a considerare, considerati i dati di altra natura molto più preoccupanti appunto che abbiamo raccontato fino a questo momento. Il 56,7% delle imprese interpellate da questo sondaggio prevede che la crisi provocata dall'emergenza sanitaria avrà un impatto negativo sul fatturato dell'intero 2020, quasi la metà ritiene che il proprio volume di ricavi subirà una flessione di oltre il 20%. La filiera agroalimentare italiana, secondo il rapporto Food and Beverage di Ambrosetti, è stata nel 2019 uno dei settori trainanti dell'economia nazionale con 200 miliardi di euro di fatturato. La Pernigotti è salva. Il piano industriale presentato oggi in videoconferenza al Ministero dello Sviluppo Economico conferma le anticipazioni dei giorni scorsi. Ad agosto partirà la cassa integrazione straordinaria per la riorganizzazione per 50 dipendenti a Milano e 59 a Novi Ligure. Nello storico stabilimento dell'azienda Dolciaria, la proprietà, che è turca, porterà la produzione di crema spalmabile di tavolette di cioccolato con due nuove linee di produzione da affiancare a quelle di e cioccolatini. I sindacati hanno detto: noi siamo tutto sommato soddisfatti, questo è il massimo che si poteva ottenere. Andiamo a qualche dichiarazione di oggi del Premier Giuseppe Conte, che è intervenuto per una comunicazione appunto alla Camera dei Deputati. Allora, primo tema, anche se non rientra nel perimetro di questa informativa, confermo che il governo vuole farsi trovare pronto all'utilizzo delle risorse europee. In questi giorni ho avviato un'ampia consultazione per elaborare un piano di rilancio da cui potrà essere preparato un più specifico recovery plan che l'Italia presenterà a settembre. Peraltro, su questa storia di settembre c'è grandissima polemica, perché in molti si chiedono: ma perché settembre? Qua bisogna partire subito, perché presentare un piano di rilancio con tutti questi mesi di ritardo che potrebbero essere cruciali, insomma, potrebbe essere veramente tardivo un piano in quel momento. Ma sentiamo Conte alla Camera. Sono qui perché ritengo doveroso fornire un aggiornamento al Parlamento in vista della videoconferenza del Consiglio europeo che si terrà venerdì 19 giugno, riguardante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e il cosiddetto Next Generation EU, che come noto completano le componenti dell'articolato pacchetto di risposta europea alla crisi, per non parlare delle massicce e imponenti misure monetarie che sono state messe in campo dalla Banca Centrale Europea con diversa intensità. Anche se non rientra nel perimetro di questa informativa, vi confermo che il Governo vuole farsi trovare pronto all'appuntamento con gli strumenti di finanziamento europeo e già in questi giorni ha avviato un'ampia consultazione con tutte le forze politiche produttive, sociali, culturali del Paese per elaborare un piano di rilancio da cui poi potrà successivamente essere ricavato il più specifico recovery plan che l'Italia presenterà in adesione al programma Next Generation EU, prossimo settembre in particolare. Quando il progetto italiano avrà una fisionomia sufficientemente completa, il Governo verrà doverosamente in Parlamento per riferire sui suoi contenuti, pronto ad accogliere proposte e suggerimenti. Ci sarebbero tante altre dichiarazioni appunto di Conte raccolte oggi durante questa testimonianza alla Camera, ve le sintetizzo perché siamo già in ritardo, devo andare in pausa e poi accogliere i nostri ospiti di oggi, ma insomma Conte ammette le posizioni in Consiglio europeo sul tema del recovery fund, la proposta italiana sono ancora distanti, nonostante su più punti, nonostante i progressi fatti negli ultimi mesi, l'esperienza insegna che le riunioni del Consiglio europeo conducono a decisioni all'altezza della sfida, solo se vi è però un metodo di lavoro improntato allo spirito europeo e al dialogo costruttivo. Vedremo quindi domani che tipo di novità anche nello spirito e nell'approccio emergerà. Ci sono delle dichiarazioni anche del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, quindi chiedo alla regia se gentilmente prepariamo questo brano. L'utilizzo del MES, dice Gualtieri, è attraente, ma la decisione la prenderemo a negoziati conclusi. E poi per quello che riguarda appunto l'Italia, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri è intervenuto al Festival dell'economia, ha detto il nostro obiettivo è raddoppiare la crescita potenziale. Sentiamolo. Non si tratta di tornare come prima, ma si tratta di rafforzare, accelerare quelle trasformazioni che già erano nel programma del nostro governo, nel programma della Commissione europea. Stiamo lavorando analiticamente anche in questi stati generali, esattamente per predisporre un piano preciso e ambizioso, che ha un obiettivo principale molto semplice. Noi abbiamo avuto un tasso di crescita media negli ultimi anni dello 0,8, al di sotto di quello degli altri paesi. E quindi il tasso di crescita potenziale equivale sostanzialmente a questo. Noi dobbiamo raddoppiare il nostro tasso di crescita medio, il nostro tasso di crescita potenziale. Dobbiamo portare il nostro tasso di occupazione dal 63 al 73%. Dobbiamo andare su alcuni indicatori quantitativi e dobbiamo farlo attraverso alcune riforme qualitative. Tutte le altre dichiarazioni di oggi degli esponenti di governo direi che me le posso lasciare per la seconda parte della trasmissione che andrà tra qualche istante subito dopo la pausa pubblicitaria, perché magari coglieremo l'occasione per commentare questi rilievi, questi commenti con i nostri ospiti. 349-238-6666 il numero che vi consente di intervenire se volete a commento dei fatti del giorno. Adesso andiamo in pausa ma torniamo tra pochissimo. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Nel primo pomeriggio ha preso il via la quarta giornata degli Stati Generali a Villa Pamphili a Roma. La sezione vede al tavolo appunto del casino del Bel Respiro, Confindustria, del casino del Bel Respiro, Confindustria, ANCE, ANFIA, CONFAPI, CONFIMI, Unimpresa, Confimpresa Italia, Confetra, Confservizi, Conflavoro, PMI, UCID, Finco, CEPI, insomma tutte le sigle che ci rappresentano il tessuto economico, industriale, imprenditoriale, produttivo italiano. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, visto che gli ascoltatori temono che noi lo censuriamo, non mi sembra, a parte che non mi sembra il caso per il tipo di azienda dove lavoriamo, ma non ci sembra proprio il caso in senso generale oscurare oggi la voce più importante che ha parlato a rappresentanza appunto del panorama economico produttivo, ma nella sostanza insomma Confindustria sta presentando questo libro Italia 2030, proposte per lo sviluppo, ed è un presidente appunto di Confindustria Bonomi che si è presentato, ma questo lo sappiamo già da giorni, senza voler fare nessun tipo di sconto al governo. Che cosa ha detto Bonomi? Intanto avrebbe voluto una diversa attenzione ed altre misure per il mondo delle imprese da parte del governo. Lo scrivevamo anche stamattina sul quotidiano, l'obiettivo è recuperare non solo i 10 punti di PIL che si perderanno quest'anno, se ci va bene, speriamo di non dover peraltro aggiornare questa previsione, ma anche i 3 punti a fine 2019 che ancora mancavano per arrivare ai livelli pre-crisi, prima del 2008, nel 2008. Bonomi, appunto, al tavolo con il governo presenta una serie di proposte. Occorrono le riforme, dal welfare troppo sbilanciato sulla spesa previdenziale, dice pericolosamente inadeguato per povertà, scuole, università, giovani, donne e famiglia, al fisco, il presidente di Confindustria lo giudica barocco e distorsivo. Si sollecita un intervento ancora una volta sul cuneo fiscale, definito la zavorra per le imprese, e in più bisogna intervenire sul maxi debito italiano che, dice, ci ha reso il paese più esposto alla crisi. Ci sono poi le sue proposte. E qua però bisogna capire un po' gli osservatori esterni che cosa ne pensano, ma di cosa hanno veramente bisogno le aziende. Allora, abbiamo interpellato due figure che il mondo imprenditoriale lo studiano dalla mattina alla sera e ce lo disegnano, ce lo raccontano, ognuno per la propria competenza. Saluto e ringrazio per essere con noi il professor Marco Fortis, docente di economia industriale e commercio estero all'Università Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison. Professor Fortis, buonasera. Buonasera. E buonasera, grazie anche al professor Marco Taisch, docente alla School of Management del Politecnico di Milano, responsabile dell'Osservatorio Industria 4.0. Buonasera, professor Taisch, anche a lei. Due Marco stasera. Buonasera a voi. Abbiamo portato a Focus Economia. Allora, sì, potremmo partire da tanti temi. Da tutte le ricette che si sprecano in questo periodo, che a vario titolo molti propongono appunto per rilanciare questo paese, perché deve venire fuori da questa crisi drammatica, da questo pantano in cui siamo finiti, e questo è un tema. Dopodiché bisognerà capire anche come ripartire, perché sicuramente, professor Fortis, inizio da lei, l'industria che c'era, l'azienda che c'era a febbraio, se mai sia sopravvissuta a questo disastro, dovrà comunque mettere mano al portafoglio, riorganizzarsi, reinvestire, ripuntare a nuovi mercati. Insomma, che volto avrà l'azienda che esce fuori da questa crisi drammatica provocata dal Covid? Ma è un volto di un'azienda che comunque è entrata nel Covid in condizioni diciamo buone, in condizioni di aumento di competitività e di produttività, perché precedentemente erano state fatte riforme ed è stato avviato anche questo piano Industria 4.0 che ha determinato la più forte crescita nel triennio 15-17, ma anche in parte nel 2018, degli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto che l'Italia abbia mai conosciuto negli ultimi 40 anni. È stata l'unica vera politica industriale trasversale che è stata avviata e ha reso le nostre imprese più competitive. Nel 2019 siamo arrivati ad avere il più alto surplus commerciale manifatturiero con l'estero, di oltre 100 miliardi di euro. Siamo il quinto paese al mondo per il più alto surplus commerciale manifatturiero con l'estero, ma l'industria da sola non può ovviamente trainare tutta l'economia, e comunque in una fase come questa deve essere diciamo sostenuta proprio dando continuità a quei progetti di investimento come l'industria 4.0 che anche il presidente Bonomi ha richiamato come fondamentali. Sono venuti completamente meno, già nel 2018 si è fermato, si è dato l'impressione che non ci sarebbe stata continuità, un errore secondo me drammatico all'epoca, unitamente all'aumento dello spread, perché si stava parlando anche di uscita dell'Italia dall'euro in quei giorni, nell'estate 2018. Quindi in queste condizioni, da una parte abbiamo perso lo slancio che la manifattura stava dando anche alla propria ammodernamento. Ricordo che negli ultimi anni la produttività dell'industria manifatturiera italiana è cresciuta più di quella di tutti gli altri maggiori paesi del G7 e dei maggiori paesi europei. La stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda diciamo così, la competitività con la forte crescita dell'export, però purtroppo il resto del sistema, quindi il settore servizi e soprattutto i servizi pubblici, hanno, come rileva Bonomi, una produttività bassissima, e questo dà conto a una produttività aggregata del sistema Italia che ci penalizza enormemente. Certo. Tra l'altro la caduta degli investimenti anche infrastrutturali, altro punto sottolineato da Bonomi, ha reso il nostro paese meno moderno nel settore pubblico, nelle infrastrutture, non sono stati fatti ammodernamenti delle reti, siamo indietro in moltissimi campi come quello della digitalizzazione. Quindi è necessario che l'appuntamento con le risorse che l'Europa ci metterà a disposizione venga colto in pieno con un piano giustamente richiamato da Confindustria, di carattere pluriennale, che dia anche delle certezze all'Europa, cioè che il nostro debito sì è alto, ma sapremo affrontarlo rilanciando la crescita. E allora, tra l'altro, Bonomi, appunto, la sua ricetta la dà, punta molto, professor Fortis, sui temi del fisco, il cuneo fiscale, anche la riduzione del debito è un tema importante per avere anche questo biglietto da visita credibile nei confronti degli altri partner europei che sono chiamati in qualche maniera anche a dare il loro contributo per sostenerci in questa fase, anche perché chiaramente è una crisi che riguarda tutti, quindi sostengono noi ma ci sosteniamo un po' tutti, e quindi insomma i punti all'ordine del giorno dell'agenda di Confindustria sono abbastanza chiari, ma passano molto anche sulla necessità che lo Stato renda la vita semplice alle imprese. Mi pare che anche su questo punto ci si ritorni con costanza, con determinazione sempre, professore, ma dall'altra parte il pubblico lì fa veramente fatica a sentire. Sarebbe anche questo uno stimolo, oltre al tema dell'infrastruttura, no? Sarebbe un gran bel modo per far ripartire il paese, ma se rendessero la vita facile alle aziende, che dice? La vita facile alle aziende, ma anche a chiunque, anche le famiglie che vogliono investire, per esempio in ristrutturazioni. Qui ci troviamo di fronte ad uno scenario dove ogni qualvolta si cerca di far partire l'economia c'è una specie di barriera burocratica, autorizzativa, che si frappone a qualunque tipo di decisione positiva. Quindi è come se ogni volta che si cerca di partire c'è già il freno a mano innestato e quindi non si riesce poi a dare la giusta velocità alla ripresa. È fondamentale non solo che le autorizzazioni per tutto, per le opere pubbliche e private, siano date velocemente, siano diciamo anche in qualche misura, come è stato scritto anche sul Sole 24 Ore recentemente da vari esperti, siano dati anche ai funzionari pubblici delle way out. Oggi questi funzionari pubblici sono spesso timorosi di incorrere in reati penali ogni qualvolta sì. firmano qualunque tipo di carta, oppure di essere accusati di abuso d'ufficio. Che intanto che c'è questa specie di cappa sul sistema, è chiaro che le imprese, i privati, le famiglie investono con fatica, perché ogni qualvolta si tratta di aprire una nuova azienda per avere l'autorizzazione occorrono mesi se non anni, ogni volta che bisogna riammodernare la casa o le pertinenze del giardino bisogna aspettare anni e si rischia di incorrere in continue penalità. Questo non è un ambiente positivo per far crescere certo. l'economia, e qui le riforme sono indispensabili, anche e soprattutto una semplificazione delle regole della pubblica amministrazione. Professor Fortis, allora noi dobbiamo andare a sentire adesso il traffico, io direi che la saluto perché poi ci mancano pochi minuti di tempo, vorrei sentire Marco Teich cosa pensa sull'altro grande versante molto importante per le aziende, la necessità di continuare a mantenere il trend di ammodernamento tecnologico e digitale che hanno già intrapreso negli ultimi anni. Adesso però è necessario dare un impulso ulteriore e quindi da questo ripartiamo tra poco. È arrivato il momento di ripartire e ora hai bisogno di un nuovo alleato. L'ERP di Centro Software è lo strumento di innovazione necessario per gestire tutti i processi aziendali e ottenere risultati vincenti. Industria 4.0, CRM, supply chain, logistica, pianificazione, gestione finanziaria, e-commerce integrato con l'ERP e tutti i reparti in perfetto collegamento. Centro Software, per ripartire ancora meglio di prima. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. Focus Economia. Mi sono mangiata tutta la trasmissione, ma abbiamo ancora 7 minuti che saranno molto intensi col professor Teich. Ancora buonasera, professore. Le dico che cosa ha detto Conte poco fa. Si continuano a punzecchiare col presidente di Confindustria. Ha detto: nel progetto di governo che avete davanti, rivolgendosi alla sua platea, troverete anche una misura che il dottor Bonomi ci voleva rubare, tra virgolette. Qui c'è il piano di transizione 4.0, ma c'è anche il nuovo piano di transizione impresa 4.0 Plus, dedicato a chi vorrà volgere le sue attenzioni e innovare in modo ancora più spiccato, abbracciando le nuove tecnologie digitali ancora più sofisticate, l'intelligenza artificiale, il blockchain, una transizione green ancora più ampia. Questo ha detto Conte. Peraltro richiami fatti ieri anche dal presidente della Consob Paolo Savona. Professor Teich, musica per le sue orecchie. Beh, assolutamente sì, però diciamo che non c'è una grandissima novità rispetto a quello che era il piano iniziale. Quello che è successo l'anno scorso è che è cambiato il meccanismo di incentivo delle imprese passando dall'iperammortamento al superammortamento, andando verso il credito d'imposta. Però di fatto le tecnologie che vengono finanziate, che vengono aiutate con questi incentivi fiscali, continuano ad essere quelle di qualche anno fa, ed è giusto che sia così, perché le imprese hanno bisogno di tempo per effettuare questa trasformazione digitale. Siamo partiti con le imprese grandi nel 2016, nel 2017, ma perché erano quelle che erano più pronte ad accogliere queste nuove tecnologie, ma poi abbiamo bisogno di tempo per consentire alle PMI di capire innanzitutto che cosa sia l'industria 4.0 e poi di mettere anche a budget gli investimenti necessari. Siamo sulla strada giusta, credo, perché i dati dell'osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano hanno mostrato anche quest'anno un aumento significativo, parliamo del più 22% di investimenti su tecnologie Industria 4.0, ormai siamo arrivati a una cifra che è molto prossima ai 4 miliardi, quindi a testimonianza che il piano nel suo complesso sta funzionando. Dobbiamo dar tempo, dobbiamo dar tempo e soprattutto dobbiamo dar fiducia. Quindi forse la cosa più importante, al di là del chi voglia, posso dire, in qualche modo prendersi la paternità, è il fatto di dare un orizzonte temporale triennale. Questo credo che sia importante, perché le aziende, per pianificare gli investimenti, hanno bisogno di orizzonti temporali adeguati. Non possiamo ogni anno cambiargli i meccanismi. Questo è un grande classico, soprattutto appunto la grande tentazione di ogni governo che si sussegue nel nostro paese, sempre la tentazione di demolire tutto quello che ha fatto il precedente, e questo chiaramente è l'incertezza legislativa, la grande penalità nella quale tentano di barcamenarsi appunto le aziende. Professor Taisch, lei stamattina è stato sentito dal collega Luca Orlando per il Sole 24 Ore e ha ricordato come molte tecnologie si siano rivelate fondamentali in questo periodo di crisi. Che nuova consapevolezza hanno raggiunto le aziende che erano comunque ancora un pochino indietro rispetto all'architettura tecnologica di cui sono dotate? Secondo me, insomma, quali limiti sono venuti fuori? Perché abbiamo raccontato molto spesso quanto, per esempio, molte abbiano adottato immediatamente il criterio di lavoro del proprio personale con lo smart working. Anche quelle più resistenti hanno poi capito che tutto sommato si può lavorare, raggiungere risultati e produrre ugualmente, con modalità un po' difficoltose, ma ce la si può fare. Se però non hai la dotazione tecnologica adeguata, chiaramente, per sostenere questo cambiamento, le cose sono un po' più difficili. Quindi esiste una nuova consapevolezza che in questo periodo parte delle aziende appunto stanno assumendo? Assolutamente sì, quello che è successo è che si sono accorte che l'industria 4.0 o in generale le tecnologie digitali non sono più un'opzione per migliorare la produttività, come era in qualche modo percepito prima della pandemia. Oggi sono il prerequisito per continuare ad accedere al mercato, la cosiddetta business continuity. Quindi in qualche modo è cinico quello che forse sto dicendo, ma il lockdown ci ha costretto ad accettare le tecnologie digitali. Questo è un'occasione, una grandissima opportunità, e dobbiamo sfruttarla, perché a questo punto non potremo fare a meno delle tecnologie digitali. Quali? Sicuramente quelle di comunicazione, e qui riapriamo il tema delle infrastrutture digitali. Ci siamo accorti di quanto la banda sia fondamentale, ma anche all'interno poi della fabbrica tutte quelle tecnologie che consentono di leggere i dati in remoto, di fare il monitoraggio in remoto e quindi di aiutare in qualche modo il distanziamento sociale. Esattamente come nello smart working abbiamo imparato a lavorare distanziati, tra virgolette, dai nostri colleghi, lo stesso si può pensare di fare in fabbrica, con quelle attività che non richiedono una presenza fisica, una manualità, e sono sicuramente molto, molto importanti. Quindi abbiamo una grandissima opportunità davanti, per questo che dobbiamo dare quella stabilità. L'industria 4.0 plus, queste modifiche che sono state fatte vanno nella giusta direzione, ma la mia opinione è che siano un po' troppo timide. Forse ci vorrebbe un po' più di shock sui valori delle modifiche che sono state suggerite per gli incentivi fiscali. È che arriviamo sempre un po' con come dire, risorse veramente tirate, e quindi chiaramente anche da questo punto di vista poi il coraggio per intraprendere certi percorsi viene a mancare. Professore, ho un minuto di tempo, magari le chiedo, non ce l'abbiamo, non era 57 la chiusura? Ah no, 56. Professor Teich, niente, volevo fare un ragionamento con lei sul tema sul quale ci eravamo confrontati un'altra volta, non in radio ma in un'altra circostanza, sul tema della formazione necessaria per sostenere questi cambiamenti. Dall'università, dalla scuola dovrebbe arrivare grande contributo al mondo dell'impresa, allora mi organizzerò per portarla a Radio 24 in un'altra occasione. Grazie, buona serata. Buonasera a voi, molto buona serata a lei, e noi ci fermiamo, adesso c'è il giornale radio, ma torniamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Immagina una tecnologia smart che unisce alta qualità e design e pensa se il benessere potesse durare tutto l'anno. Ora goditi tutto questo con i climatizzatori GRI. Comfort elevato a consumi ridotti, tecnologia green. GRI, leader mondiale nella climatizzazione. GRI.argoclima.com. La mia auto ideale in una parola, SUV, sempre ibrida e anche 4x4, ma sono tre parole. Prova con due, Suzuki Ignis, Hybrid e 4x4, tua da 14.500 euro. Scoprila con la formula Aperti per te, domenica su appuntamento. Suzuki. Perché hanno capito l'importanza di investire con metodo? Perché hanno la consulenza di un family banker? Perché entrano in banca come vogliono? Se Mediolanum è la banca più consigliata in Italia dai propri clienti, c'è più di un perché. Consigliala anche tu ai tuoi amici. Se aprono il conto, sarai premiato. Pubblicità. Ricerca BVA Doxa 2019 per Banca Mediolanum sulla consigliabilità della propria banca di riferimento. For your reward in new edition. Operazione a premi per correntisti fino al 31/12/2020. Per accumulare punti, richiedere premi, regolamento e fogli informativi, vai su bancamediolanum.it. Banca Mediolanum. Costruite intorno a te. Da MediaWorld scopri come muoverti green. Monopattino elettrico Xiaomi a soli 349 euro o in 20 rate da 17,45 euro. Fino al 21 giugno scopri tantissime offerte anche su smartphone, computer e prodotti high tech. MediaWorld, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Si è allagato il bagno! E adesso? Che sarà mai? Con Immagina adesso la nostra casa può contare su professionisti che si prendono cura di lei. E di noi? Contatta l'agenzia più vicina. Scopri di più su generali.it. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su generali.it. È arrivata l'estate, andiamo in ferie? Ma andiamo in auto, hai fatto tutto? Ho fatto tutto, anche il tagliando. No, il tagliando no. Chissà ora quanto tempo ci vorrà, dobbiamo rimandare. No, ti basta scegliere una delle 1400 officine Bosch Car Service per fare il tagliando velocemente e quando vuoi. Così potrai partire in tempo e perderai la garanzia costruttore. No, perché nei Bosch Car Service mantieni anche la garanzia costruttore. E ora rilassati e goditi la vacanza. Info su boschcarservice.it. Migliora il servizio ai clienti e aumenta le vendite ma non i costi. Partecipa al webinar dedicato al tema digital sales e alle esperienze degli imprenditori. Registrati al primo appuntamento del 23 giugno su sanmarcoinformatica.com. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Ci ritrovati, ancora buonasera a tutti da Deborah Rosciani e per la seconda parte appunto di Focus Economia. Allora, ci sono degli ascoltatori che stanno utilizzando il 349-238-6666 di WhatsApp per telefonare, ma noi non possiamo rispondere. Però leggiamo i vostri messaggi. Volevo leggere questo di Davide, che chiede a Sebastiano se sarebbe così gentile da trattare l'argomento Dentix, migliaia di pazienti truffati, non curati, centinaia di dipendenti che hanno perso il posto di lavoro. Davide, noi ne abbiamo citato di questa catena di centri per le cure dentali molto diffuse in Italia, che praticamente ha chiuso i battenti da un momento all'altro, l'ha chiusi naturalmente per il Covid, perché come sapete le prestazioni non potevano essere erogate da questi centri come da tutti i centri odontoiatrici, da tutti i dentisti. La cosa grave di questa catena è che per pagarsi le cure, che sono considerate un pochino low cost, le persone si indebitano, sottoscrivono dei prestiti, per cui molti hanno pagato cure che non hanno ricevuto, e questo è un tema. Stamattina si era anche diffusa la voce per mezzo di un'associazione dei consumatori che la società fosse pronta e avesse portato i libri in tribunale Poi l'associazione dei consumatori ha smentito, non fosse per altro che ancora non è possibile dichiarare istanza di fallimento per le restrizioni anche alla giustizia e all'attività giudiziaria, appunto, che ci sono in questa fase. Quindi Davide, noi ne abbiamo già un po' parlato e segnalato a Due di Denari la mattina, però siccome tra poco abbiamo il presidente di una grande associazione dei consumatori, ti chiederò anche di questo, se sa qualcosa di questa faccenda. C'è poco da sapere, nel senso che c'è solo da denunciare questi signori nel caso in cui se la siano data a gambe, appunto, lasciando insoddisfatti i clienti oltre che i dipendenti in difficoltà. Adesso però è tempo di parlare di mercati finanziari, di borsa, di questa giornata che ha vissuto una doppia faccia, perché stamattina tutti gli indici stavano ben consolidando i rialzi di ieri. Poi c'è stato un po' un rallentamento in Europa, adesso Wall Street è contrastata e quindi un po' il mercato è contento ancora delle iniziative di stimolo monetario che sono state lanciate nei giorni scorsi dalla Banca Centrale Americana, dalla Bank of Japan, dalla Banca d'Australia e da tutti gli organismi internazionali. D'altra parte però le notizie che arrivano da Pechino non è che siano proprio tranquillizzanti, è vero Enrico Miele, Radio Corriere, Sole 24 Ore? Enrico, buonasera. Sì, buonasera a te e agli ascoltatori. E questo è il motivo di questa un po' indecisione anche negli Stati Uniti in questo momento, con gli indici che vanno in direzioni diverse. Sì, come anticipavi tu, è stata una seduta prudente per le borse europee, perché in realtà i recenti entusiasmi per una rapida ripresa dell'economia sono stati un po' smorzati di colpo dai nuovi contagi Covid registrati a Pechino, quindi con delle nuove misure di lockdown nel paese che per primo era riuscito, come abbiamo detto e scritto, a sconfiggere la pandemia e l'aumento dei casi negli USA. E quindi gli investitori, diciamo che in questo momento temono un po' i focolai di ritorno del Covid. E quindi, dopo il forte progresso della seduta di ieri, la cautela oggi a che cosa è legata? Gli investitori continuano sia a guardare la ripresa, ma i dati che arrivano dall'economia reale danno un quadro di luci e ombre, e quindi su questo i timori, insomma, di fondo restano. Allora, andiamo intanto ai casi del giorno per quello che riguarda Milano. Non ho dato le percentuali. Parigi più 0,8, Francoforte più 0,54, Londra più 0,17, Wall Street, dicevamo, contrastata, Standard & Poor's più 0,09%, abbiamo il Dow Jones in ribasso dello 0,07, il Nasdaq cresce invece di mezzo punto, sia sul composito che il Nasdaq 100. Qua la tecnologia continua a correre, d'altronde un po' anche per i temi che affrontavamo prima con Marco Teich, grazie alla tecnologia abbiamo tenuto un minimo di normalità delle nostre vite, abbiamo lavorato molto, abbiamo goduto di tutti i servizi di intrattenimento forniti da grandi piattaforme, e il Nasdaq vola inevitabilmente. Ma andrei ai casi di Piazza Affari, cominciando con la stella che oggi è brillata, quella di Recordati, Enrico, più 6,27%. Cosa è successo? Sì, Recordati è legata a un giudizio positivo di Goldman, che scommette su questo nuovo farmaco che serve per combattere una malattia rarissima, che è la cosiddetta patologia di Cushing, e quindi l'azienda ha comunicato come la sperimentazione sul farmaco stia procedendo in maniera positiva e la view sulle opportunità commerciali di questo nuovo farmaco è un pilastro fondamentale dei giudizi positivi sul titolo, come riportano gli analisti, anche perché si tratta di un mercato che ha pochi farmaci di questo tipo, o meglio a pochi farmaci che sono riusciti ad ottenere l'approvazione, e quindi questo dimostra l'efficacia anche del percorso di test di Recordati. Quindi niente a che fare con il Covid. Tra l'altro mi sono dimenticata di dare i dati di oggi sui contagi, ve lo do molto velocemente, appunto l'ultima statistica abbiamo, eccolo qua, me lo son perso, no, adesso vedi do un attimo, che l'agenzia come al solito mi fa le bizze proprio nel momento in cui mi servono i dati del giorno. Torna a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, un incremento di 329 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 210. Gli attualmente il dato consueto della Protezione Civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 242, il numero dei casi totali è arrivato a 237.828, 5 le regioni ad aumento 0, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria e Basilicata, più la provincia autonoma di Bolzano. Gli altri temi appunto della giornata a Piazza Affari, anche Nexi continua a correre, ormai non lo so, sarà questione di poco l'annuncio dell'integrazione con SIA, perché su questa prospettiva di questa fusione, di questo matrimonio, Enrico, ma il mercato scommette non da ieri ma da mesi. Esatto, infatti oggi abbiamo usato l'espressione della fase 2 per l'operazione con SIA, perché anche in base alle indiscrezioni riportate da Sole 24 Ore sarebbe entrata nella fase calda la trattativa per l'operazione di integrazione con gli advisor finanziari che sarebbero al lavoro sulle valutazioni dei due gruppi. In ogni caso, sottolineano gli analisti, se l'operazione andasse in porto verrebbe a crearsi un gigante, un campione italiano ma anche un player importante a livello europeo sui pagamenti elettronici. Il nodo chiave, sottolineo alcuni report questa mattina, rimane la presenza di Cassa Depositi e Prestiti nell'azionariato, e quindi da qui ci si interroga su quale potrebbe essere la struttura di governance di questo possibile matrimonio. Però insomma la borsa nell'attesa ha premiato il titolo. Enrico, ti chiedo solamente pochi istanti di pazienza, ci ascoltiamo insieme il traffico, poi andiamo a commentare gli altri casi del giorno. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Hai visto la nuova Fiat 500X Sport? Nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo assetto sportivo. Ma non era un SUV? Nuova 500X Sport. Totalmente SUV, totalmente sport. Gamma 500X con zero anticipo e zero rate nel 2020. E poi da 14.700 euro oltre oneri finanziari con finanziamento anziché 16.400 euro. TAN 685, TAG 8.48. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Le concessionarie Fiat sono aperte e ti aspettano in tutta sicurezza. Focus Economia. La giornata di Piazza Affari meno 0,20% per il FTSE MIB. Stiamo commentando l'andamento dei migliori titoli del giorno con Recordati più 6,27%, Nexi più 3 punti, Finecobank più 2,56%, Amplifon più 1,58%, Buzzi Unicem più 1,53%, Salvatore Ferragamo più 1,41%. Dall'altra parte della classifica troviamo molti titoli del settore bancario. Il peggiore è Tenaris meno 3%, poi Atlanti ancora una volta, Enrico Miele meno 2,49%. Abbiamo delle novità? Ma sulla holding dei Benetton in realtà pesa lo stallo politico sul negoziato, come noto, delle concessioni autostradali, una partita ormai che è iniziata quasi 2 anni fa, quando il governo ha aperto la cosiddetta procedura di revoca dopo il crollo del ponte Morandi. Il vero tema, come abbiamo ripetuto più volte di recente, è il tempo, perché entro il 30 giugno va trovato un'intesa, altrimenti il rischio è quello di una disputa legale tra lo Stato e Atlantia, che può richiedere la risoluzione della concessione alla luce delle modifiche peggiorative introdotte dal punto di vista dell'azienda dal decreto mille proroghe. Il problema è che nelle ultime settimane i messaggi provenienti dalla politica, in particolare dalla maggioranza PD 5 Stelle e dallo stesso Premier Conte, sono stati variegati in diverse direzioni. Quindi questo dà la misura che anche a livello politico non c'è ancora un accordo di massima su come terminare questa vicenda. Fiat Chrysler sul finale meno 0,38%, quindi tutto sommato una giornata di tenuta, ma mi pare che ci siano delle novità sulla operazione con Peugeot Citroën, ancora una volta è un'altra autorità europea che accende riflettori sull'iniziativa. Esatto, anche perché prima che arrivasse la notizia dell'antitrust UE, in realtà SCA era in territorio positivo. Cos'è accaduto? Da Bruxelles c'è stata l'ufficializzazione, che riguarda la decisione della Commissione UE, di aprire un'indagine approfondita sulla fusione tra FCA e Peugeot. Perché? Perché scrive nero su bianco, preoccupata che la transazione possa ridurre la concorrenza nel settore dei veicoli commerciali. Si tratta dei cosiddetti minivan, dove tra l'altro FCA e Peugeot a loro volta hanno già in una joint venture che lavora anche in uno stabilimento italiano di Atessa, la Sevel. E quindi la novità qual è? Il mercato si attendeva all'avvio di questa istruttoria approfondita, ma al di là dell'esito dell'istruttoria il nodo è quello dei tempi, cioè se l'UE si prende più tempo a scalare, perdonate il gioco di parole, serviranno più mesi per portare a conclusione questa operazione. Le aziende hanno ribadito che alla fine del primo trimestre del 2021, vista come la deadline per chiudere la fusione, però in realtà il mercato si interroga su se questo calendario potrà essere rispettato. Enrico, grazie per essere stato con noi, buona serata, presto. Grazie a voi. Noi andiamo avanti con un altro tema, abbiamo un corredo musicale, grazie. Chissà se piace al nostro ospite, anche noi vogliamo sempre accoglierli al meglio. Allora, l'ultimo tema che abbiamo scelto per Focus Economia è un tema che mediamente troverebbe spazio a due di denari, ma chiaramente portandomi nella trasmissione della seconda parte della giornata mi porto dietro anche gli ospiti che mi piacciono. Adesso insomma scherziamo un po', ma semplicemente perché il tema che vi voglio proporre è un tema economico ad ampio spettro e quindi riguarda tutti, riguarda anche un contesto macroeconomico, ma facciamo un po' di ordine. Allora, c'è una grande organizzazione dei consumatori che si chiama Assoutenti, che in collaborazione con un'altra associazione, Movimento Consumatori e Federcarrozzieri, organizza un evento, quelli della Carta di Bologna, consumatori, assicurati, danneggiati, artigiani, concorrenza e diritti. Questo evento, per tutti gli interessati, viene trasmesso fra un'oretta in diretta Facebook sulla pagina proprio di questa associazione che si chiama Assoutenti. Si inizia alle 19.30. In realtà stasera si parte con il mercato assicurativo, ma c'è un percorso che durerà per qualche settimana, durante il quale si affronteranno un po' tutte le problematiche emerse in queste settimane che riguardano proprio l'universo mondo consumatori. Mi è piaciuto questo parallelismo che gli organizzatori hanno fatto con gli stati generali che si stanno tenendo in questi giorni a Villa Pamphili. E cioè loro li hanno chiamati gli stati generali paralleli. Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, buonasera. Eccoci Deborah, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, gli stati generali siamo noi, quindi è chiaro che sono paralleli, ma perché noi siamo gli stati generali, ovviamente non vogliamo entrare in nessuna polemica con un'iniziativa così importante per la ripresa dopo il Covid, però è chiaro che cittadini, consumatori, gente comune sono i veri stati generali della nazione, ecco, come ricordava che qualcuno col quarto stato. Infatti. Ma Truzzi, il punto è che adesso mi dirà il calendario di questi eventi, perché così tutti coloro che avranno piacere vi seguiranno, ci sono temi che ci interessano tutti molto da vicino, ma il punto è che quando si fanno queste grandi kermesse, per qualcuno sono delle vetrine, per qualcuno sono degli eventi invece importanti di confronto da cui emergono poi delle considerazioni e riflessioni importanti, quindi noi vogliamo pensare che gli stati generali di Roma di questi giorni abbiano questa connotazione, ma le associazioni dei consumatori non vengono mai interpellate, come se non fossero adeguatamente rappresentative della società civile. Ci sono sicuramente i sindacati e ricordiamo che molte associazioni dei consumatori sono di diretta derivazione sindacale, e però magari anche voi avreste, come dire, un po' di cose da dire, qualche richiamo da fare. Insomma, se lei fosse invitato a Villa Pamphili in queste ore, che cosa chiederebbe al presidente Conte? Ma innanzitutto, molto praticamente, correggere alcuni piccoli errori che ci sono stati nei precedenti decreti, come ad esempio il rimborso per i viaggi o per i biglietti, ecco, che sembra una cosa impossibile questa storia del voucher entro l'anno, perché molta gente ha altri programmi, magari si è prenotata un viaggio al prezzo low cost e uno gli dà il prezzo low cost e dove va poi con questo voucher? Quindi piccoli errori del passato, e guardando al futuro due cose molto semplici. Ripensiamo l'economia con due paletti. Il primo è il danno all'ambiente e il secondo è il rispetto delle condizioni di lavoro. Ecco, l'Ilva in questo caso è emblematico e non ci vuole forse stati generali per fare questa scelta, però ai consumatori interessa molto una crescita felice per l'uscita dal coronavirus, e la crescita felice non può che essere nel rispetto dell'ambiente e nei diritti di chi lavora, oltre che di chi consuma, e quindi rispettoso anche di uno stile di consumo che non è produci consuma crepa, ecco, per usare una trilogia di altri tempi. Infatti, presidente Truzzi, allora per consentire anche alle persone che sono interessate a questi argomenti di seguirvi, ci fa l'agenda dei vostri incontri, perché questa sera inizierete con il tema del mercato assicurativo in Italia, ma anche un po' di tutti, parlerete un po' della vita di noi tutti come automobilisti, conducenti di auto, spesso incidentati, protagonisti di sinistri, rapporti con i carrozzieri. È stato un tema particolare per scegliere di aprire questo ciclo? E abbiamo scelto questo tema perché è un tema trasversale, non che gli altri non lo siano, ma consumatori, assicurati, danneggiati, artigiani mettono in gioco un settore che è gonfio di miliardi di ricavi e quindi può essere un volano importantissimo per la ripresa, è gonfio di un oligopolio e quindi necessitante di una vera concorrenza, è gonfio di un problema di giustizia, perché solo in quel settore abbiamo 250.000 cause pendenti, e quindi velocizzare questo settore significa anche velocizzare la giustizia, che, lo ricordiamo, è da mesi chiusa proprio per la questione Covid. Quindi è un po' l'insieme di tutte queste cose che ci ha fatto aprire con questo tema delle assicurazioni dei danneggiati, e anche per valorizzare il lavoro artigiano, perché poi l'Italia è certamente un paese che sa competere a livello internazionale, ma che trae la sua forza dai milioni di artigiani di questo paese che fanno delle vere opere d'arte. Tra l'altro, a proposito dei tribunali chiusi, volevo ricordare ancora una volta di un caso che ci è arrivato qui in radio, sul quale non riusciamo veramente a trovare una soluzione. Io ho coinvolto anche degli avvocati dell'Associazione dei Consumatori, ma facciamo fatica. Ci ha scritto un'ascoltatrice raccontandoci di aver comprato una casa all'asta, non riesce a farsi consegnare le chiavi dal tribunale perché questo è chiuso, tribunale di Milano, e quindi non ha modo di consegnare, di avere consegnata questa chiave. La situazione è che è una famiglia anche in una condizione economica molto modesta, semplice, aveva giusto il denaro appunto per riuscire a fare questo acquisto, e da mesi sta pagando l'affitto per un'altra abitazione, è titolare di una casa di proprietà, in più c'è un altro deposito che sta pagando dove tengono tutti i mobili, e questa è la situazione che poi dopo uno dice le povertà, no? Ecco come le creiamo, anche in questa maniera, non velocizzando queste operazioni. Capiamo la chiusura dei tribunali, ma su una consegna di una casa regolarmente comprata io penso che si potrebbe anche organizzare qualcosa di più veloce. 30 secondi Truzzi per raccontarci gli altri appuntamenti che avrete nelle prossime settimane. Sì, velocissimo, però devo dire che siccome stiamo dietro alle piccole ingiustizie quotidiane, se poi del tutto volontariato gratuito, se siamo a disposizione di questa famiglia. Grazie. Quello che succede nelle prossime settimane è gli Stati Generali siamo noi che continuano, e quindi con il diritto alla mobilità il 18 giugno chiamiamo in gioco le famiglie in crisi con scuola, asili nido e centri estivi, domani. Un tema centrale domani, il 26 giugno diritto alla mobilità dopo il lockdown, c'è il problema della circolazione privata ma soprattutto pubblica, dei rimborsi a chi ha avuto abbonamenti che non sono stati ancora rimborsati. Gli altri li dirò io, Truzzi, perché sennò fra un po' Cruciani viene a tirarmi fuori per le orecchie dallo studio, ma li segnaleremo noi giorno per giorno. Grazie a Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Fra un'ora inizia sulla loro pagina Facebook l'evento sul tema consumatori, assicurati, danneggiati, artigiani, concorrenza e diritti. Grazie a tutti, io domani torno con due di denari. A tutti una buona serata.